fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Buonasera ragazze, noi siamo in diretta con Ristoradio Convento e siamo in compagnia di una bellissima sposa che si chiama Martina. Martina, e con due altre bellissime ragazze. Ce le presentiamo. Sorelle, wow. Sorelle, sì, sì, Francesca e Andrea. Wow, ragazze, siete bellissime, ve lo posso dire. Grazie. Diverse, ma bellissime, perché non vi somigliate, non l'avrei mai detto. Solo forse voi due, ma altrimenti lei non l'avrei mai detto. Avete lineamenti diversi. Abbiamo, guarda, un pretendente. Sì, non sì, si sì, sì. Ma per chi è delle tre il pretendente, secondo voi? La sposa. La sposa. Ragazze, allora, di dove siete? Alvaredo d'Adige, Verona. Verona, sì. Verona. E quando è la data del matrimonio? Vediamo se la sposa si ricorda. 28 maggio, sì, perché è tutta serata che me la chiedono, quindi me lo ricordo per forza. Vabbè, non te lo chiedo più allora. Anche perché prossimamente, neanche 15 giorni. Sì, sì, no, tre settimane più o meno, sì. Sì, sì, sei pronta psicologicamente? Ci siamo, dai, ci siamo, sì, devo solo recuperare la serata, un altro pretendente, eccolo qua. Abbiamo i fan, e abbiamo i fan che ci guardano, ragazze. Allora, poiché ho qui delle due sorelle, cosa che non mi capita sempre, avete qualche domanda particolare, stuzzicante, che volete chiedere a questa bellissima sposa? Qualsiasi domanda, vediamo cosa ci risponde. Qualsiasi dubbio che vi venga. Il colore. Sì, sì, sì, aspetta che mi viene. Se ti viene ti avvicini al microfono, così la puoi dire. Vediamo. Allora, innanzitutto, come ti sei conosciuta con lo sposo? Iniziamo da questa domanda. Ma ci siamo conosciuti che io facevo la parrucchiera e lui è venuto a tagliarsi i capelli e ci siamo conosciuti in quel contesto lì, insomma. Da quanto tempo stai con lui? 8 anni. Ah, un bel po', dai, un bel po'. Calcola che sei fortunata, perché 8 anni ti ha chiesto il matrimonio. Prima è entrata una coppia, 12 anni e mezzo e ancora non arriva la proposta, quindi diciamo che la ragazza dovrà sudare un bel po' per la proposta. Sì, direi di sì. Voi ragazze siete fidanzate? Sì. Sì, guarda come l'ha detto contenta lei, sì. E raccontaci un po' anche tu, dai. Che cosa? Tutto. Ah, devo parlare? Certo. Noi, guarda che le persone a casa ti vogliono sentire. Allora. Anche perché secondo me sei la più giovane. Sì? Sì? 24 anni. E già sei fidanzata anche tu? Sì. Sì. Ho un bel moroso, sportivo. Bello. Come si chiama? Come si chiama? Marco. Marco, allora, la tua fidanzata è felicemente innamorata e ci tiene a dirti che sei bello per chi non lo sapesse, va bene? Sì, il problema è che lei deve ancora conoscerlo. Mi ha lasciato per ultima questo giro. Cioè, ancora sì, non devi conoscere fresca. Ancora non devi conoscere il moroso. Aspetta, vuoi sapere come l'ho conosciuto io? Sì, voglio sapere. Mi hanno fatto un'intervista doppia, quindi mi hanno fatto di quelle domande pungenti, molto dirette. Mi hanno fatto bere. E c'era anche lui. Vodka. E tu non sapevi chi era lui? No, l'ho conosciuto quella sera lì, insomma. Cioè, domande della serie, quanto dura il vostro rapporto sessuale? Ah, questa è una bella domanda. La serie, vediamo. Piacere, cognato. Vediamo più o meno se ci risponde a questa domanda. Cosa hai risposto tu a questa domanda? Allora, dipende dal tempo che abbiamo a disposizione, perché noi abbiamo due bambine. Ah. E quindi può essere dai 5 minuti, ma può durare anche molto di più. Dipende dalle bambine, se dormono e sono tranquille oppure sono sveglie, quindi devi fare la sveltina. Esatto. Giusto? Esatto, sì. Allora, vediamo un po', perché è una domanda che mi incuriosisce. La tua posizione preferita? Oddio, dipende. A pecorina anche. Vedi? È la tua adesso? La mia. Ma è tutto, ma va bene tutto. Tutto. Nella serie basta che si fa, ci va bene. Ci va bene. Si è fatto bene. È giusto. È giusto. Come, allora, secondo voi, un'altra cosa, è più importante la grandezza o il saperlo usare? Perché c'è chi dice no, deve essere grande, e c'è chi dice invece lo deve sapere usare. Può essere anche piccolino, ma deve saperlo usare. Secondo voi qual è la vostra teoria? Io direi la seconda, è anche tanto, è una cosa mentale. Tale. Sì, sì, soprattutto per noi donne è una cosa mentale. Non capisco la sua faccia, perché è perplesso, sta pensando. È innamorata, cioè cosa vuoi, le va ben tutto in sto momento. Un po' in after, ma... In after. È giusto, è sincera. Allora, abbiamo, come si chiama dietro lei? Io Francesca. Francesca, tu non stai parlando proprio, no. Io adesso ti faccio a te qualche altra domanda, perché io sono curiosa. Questo è un confessionale, noi siamo pronti e curiosi di sapere tutto, le cose molto più anche segrete, perché giusto? Tu non sei curiosa, lei è fidanzata, Francesca? No, io sono sposata. Sei sposata, Francesca? Sì. Da quanto tempo? Non si ricorda più. Tre anni a settembre faccio. Tre anni a settembre. Si è ricordata, ragazzi, cosa positiva, si è ricordata. Si è ricordata. E la tua posizione preferita, poiché sei sposata da più tempo e loro ancora fresche sono più o meno di matrimonio, ancora non. Cioè lei che si deve sposare e lei che ancora non se ne parla proprio. La Francesca... No, non c'è una posizione preferita. Io no. Ci vedo no. Al cucchiaio. A cucchiaio. Bene, ragazzi, a casa non avete visto la faccia che ha fatto, perché è fantastica. È fantastica. A cucchiaio. E la tua durata più o meno? Ma non saprei, di 5-10 minuti, non lo so. Vedi, dipende anche a lei, dipende. Sì. Giustamente anche lei ha i suoi tempi. Vedi, se è piccola è ancora peggio la cosa, la durata è ancora più breve. Giusto, ragazze? Ma mi va proprio male, sì. Sì, poco. Poco. E te, Andrea? Tanto. Lei è tanto, perché giustamente è giovane, è fresca la cosa. È presa male. Giusto, da quanto tempo stai insieme al moroso? Poco, che non lo poco. Poco, vedi? Quindi poco. Giustamente all'inizio, ragazze, si dà di tutto, ve lo dico. È breve e intenso. A volte è breve, a volte è lungo, dipende. No, dipende dai preliminari, dipende da quante sempre cose. Lungo. Sempre lungo, sempre in tutto e per tutto, ragazzi. Marco è lungo in tutto e per tutto. Va bene, mi fa piacere che siete qui, perché siete tre ragazze bellissime e soprattutto abbastanza socievoli, c'è da dire questo. Ma una dedica allo sposo, al futuro sposo Andrea? Ma certo, prego, prego. Una dedica. Oppure gli volete fare voi una dedica alla sposa, che siete sorelle. Ah sì, dai, la mia serata si sta. Cosa mi auguravo? E ti auguriamo tante serate ancora così con noi, anche da dopo piace. Sposata. Oh, sì, direi di sì. E sempre tante felicità. Un saluto a nostro cognato. Ciao cognato. Ciao Borse. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a te. Io vi lascio a proseguire la serata nella gabbia dei matti. È stato un piacere. Buona serata. Ciao ragazze. Ciao. State ascoltando Ristoradio.